Benvenuti alla 14ª puntata di Cialtroni nello spazio. Un po' in ritardo oggi, ma in diretta comunque, quindi potete anche telefonarci allo 030 45 670. Che cos'è Cialtroni nello spazio? Una trasmissione di informatica, cultura digitale, libertà varie, di cui si parla ogni mercoledì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, condotta ancora per poco da Alessandro, Marco e Francesco. Alessandro e Francesco resteranno, Marco se ne sta per andare. Oggi abbiamo fatto anche un po' tardi perché eravamo impegnati nei saluti e per la sua vacanza che sta iniziando e che ci mancherai molto. E in realtà mi dispiace un sacco dover partire, però tutte balle. Allora iniziamo subito con la trasmissione. Ricordiamo che oggi non ci sarà Biovera dopo di noi, mi sembra, almeno per oggi, non sono sicuro se tornerà per la settimana prossima, quindi un mercoledì un po' particolare allo spazio di dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per quanto riguarda la puntata di oggi di Cialtroni nello spazio, Alessandro ci racconterà quali sono gli argomenti che andremo a vedere. Allora, continueremo a trattare del DRM, quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e dello scontro in seno al movimento open source che c'è tra i due, tra i più grandi esponenti, insomma, del movimento, che sono Torvalds e Stallman. E portiamo... l'inventore di Linux e l'inventore della GPL. Esatto, che ha dato il via al movimento open source. Parleremo di un arresto a Cremona per materiale... Un sequestro. Un sequestro, non esageriamo. Sì, no, 20.000 euro di multa non sono pochi. Esatto, mi è scappato l'arresto, ma in realtà era una multa, vabbè, comunque una traduzione in multa. E ha un altro paio di notizie sempre sulla repressione di contenuti senza licenza e poi ovviamente un po' di musica. Beh, partiamo subito da una news. Nei giorni scorsi avevamo parlato della situazione in Francia, dove una parte del governo sta cercando di spingere una direttiva che permette la legalizzazione del peer-to-peer, ovvero sia della condivisione di file multimediali in internet, dietro al pagamento di una tassa. Proprio oggi dovrebbe esserci la riunione con iniziale su questi argomenti, e appunto oggi è stata resa nota la sentenza di una corte francese che ha assolto il signor Antoine G per aver condiviso 1200 file audio attraverso un sistema di peer-to-peer, in questo caso Kazaa, e appunto è stato appunto assolto secondo la ragione che appunto questo signor Antoine non avrebbe mai fatto alcuna copia per uso di profitto, quindi non ha mai tentato di vendere queste cose, le copie che ha fatto della musica e la condivisione era soltanto per uso personale, e inoltre i giudici hanno detto che questa copia personale è legalizzata dal fatto che già questo signor Antoine G ha comprato un sacco di CD vergine, e su questi CD vergine ci sono appunto delle tasse che vengono poi instradate all'equivalente della SIAE francese, in modo da essere poi redistribuiti ai produttori di musica e di contenuti multimediali. Quindi secondo appunto questi giudici, questo signor Antoine non ha assolutamente, è stato considerato appunto innocente dei... E niente, questa notizia non farà altro che probabilmente ancora peggiorare la situazione di guerra che c'è all'interno del governo francese sulla appunto questa istituzione del peer-to-peer legalizzato in Francia. Ricordiamo che ne avevamo parlato anche il mese scorso, perché alla fine di dicembre era stata approvata dalla Camera Bassa del Parlamento francese la proposta di legge che prevedeva appunto una sorta di canone per lo scambio di file attraverso reti peer-to-peer, legalizzando di fatto questa prassi. questa sentenza porta la giurisdizione francese un passo avanti, dichiarando sostanzialmente il fair use, quindi l'uso personale, insomma, dichiarando lecito l'uso personale di materiale protetto da copyright, cosa che insomma in quasi tutti i paesi europei viene repressa, o almeno il tentativo sarebbe quello. E infatti proprio in direzione opposta succede in Italia. No, ancora una cosa da dire, okay. Scusami. A proposito di questa cosa, la portavoce della Motion Picture Association europea. Che bello inglese. Grazie. No, ma era francese in realtà. Motion Picture Association. E appunto ha dichiarato che il governo non, da quanto loro sanno, il governo non prenderà mai questa decisione, e che inoltre in caso di questa legge venga promulgata, ci sarà la mobilitazione totale dell'industria dei media mondiali contro questa legge. Io stavo invece dicendo che in direzione opposta a quello che stava accadendo in Francia è successo in Italia, a Cremona in particolare, durante una perquisizione relativa a un'inchiesta di cui non si sa ancora nulla, sono stati trovati 200 CD e DVD masterizzati, per i quali è stata scattata una multa da 20.000 euro. A Cremona stavano perquisendo quindi una casa su un'inchiesta che non c'entrava comunque con la ricerca di materiale duplicato. Quindi 200 CD, DVD, tipicamente le classiche copie fatte ad uso domestico, non per scopi commerciali. Per la sola detenzione di questi supporti audiovisivi è scattata una sanzione di 20.000 euro, che non, un'operazione che non ha avuto precedenti, sia perché la legge Urbani è stata approvata recentemente, quindi non c'erano stati dei casi prima, a Cremona almeno, e anche perché non si era mai arrivati a multare qualcuno per dei dischi che teneva in casa, e quindi non perché li stava vendendo o noleggiando o perché li stava e neppure li stava riproducendo in pubblico. Finora le forze dell'ordine, cosiddette forze dell'ordine, si erano limitate al sequestro di CD e DVD che erano stati magari venduti senza marchio SIAE da ambulanti in strada, e mai si era assistito al sequestro e sanzioni a carico di persone che lo stavano utilizzando solo a scopo privato. Quindi insomma potrebbe essere anche un precedente che possa fare in qualche modo scuola questo. Beh, particolarmente grave dal punto di vista giuridico è il fatto che la multa e la sanzione sia stata combinata dopo una perquisizione per cui non c'era un mandato esplicito, nel senso che le forze dell'ordine erano lì per un altro tipo di inchiesta. E non si sa ancora bene perché tipo non di si inchiesta. Sanno i dettagli, però almeno dalle prime indiscrezioni pare che non fossero lì effettivamente per cercare il materiale, di conseguenza anche il mandato che avevano per la perquisizione non prevedeva questo. Si tratterà bene di vedere, anche perché questo, al di là della questione sul copyright eccetera eccetera, è una questione giuridica di importanza piuttosto pesante, e quindi sarà sicuramente un'indagine da seguire. Cambiamo argomento e riprendiamo il discorso della settimana scorsa sulla multa, appunto, che l'Unione Europea ha combinato secondo me, vabbè, quella roba lì, insomma. Combinato è quando ti saluti. Siamo Microsoft è stata multata dalla Comunità Europea. Esatto, e in risposta a questa multa, per non prendersi questa multa incredibile, Microsoft ha detto: va bene, concederò una parte dei sorgenti di Windows a coloro che le richiederanno, e in particolare però questi sorgenti verranno distribuiti a un costo decisamente elevato, adesso non ricordo quant'era la cifra. In questi giorni invece è la risposta dell'Unione Europea. Appunto dell'Unione Europea, in particolare del commissario europeo dell'antitrust Nili Kroes, che vabbè, nome strano, e appunto dice che ha fatto sapere alla Microsoft che questa non potrà mai pretendere una un rimborso in denaro da parte di coloro che accederanno a questo codice, quindi non potrà farsi pagare il fatto di concedere la visione di questo codice, a meno che non riesca a dimostrare che questo codice sia particolarmente innovativo, e di conseguenza questo probabilmente obbligherà la Microsoft a distribuire gratuitamente a coloro che appunto ne faranno una richiesta il suo codice sorgente. Andiamo adesso a vedere invece un esempio di censura che va in una direzione contraria a quella che abbiamo visto di solito, Alessandro. Allora, riportiamo un articolo che Grillo ha pubblicato sul suo blog, e che tratta di un evento avvenuto in queste settimane. Allora, il sito Wikipedia, di cui abbiamo parlato spesso e da cui prendiamo spesso informazioni, ha deciso di oscurare il congresso degli Stati Uniti, ovvero ha impedito che dagli IP, quindi dagli indirizzi facenti riferimento al congresso, fosse possibile modificare le pagine di Wikipedia. Allora, sembra detta così, sembra una cosa incredibile, in realtà il motivo è che alcuni senatori erano usi a utilizzare gli apparati informatici, il personale del congresso, per rimuovere informazioni a loro sgradite. In particolare il senatore repubblicano Martin Min si è dist-